GR24, il sole 24 ore. Governo riunito da tre ore per varare l'atteso decreto sviluppo, si discute anche di ulteriori tagli alla macchina pubblica. La BCE garantirà liquidità al sistema bancario, bastano le parole di Draghi per fare rimbalzare le borse. Ancora un calo nelle immatricolazioni di auto in Europa, la Fiat annuncia tagli negli investimenti per 500 milioni. Scoperto in Puglia dalla Guardia di Finanza l'ennesimo falso cieco, la truffa va avanti da 35 anni. Buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Paglierini. Il governo è riunito a Palazzo Chigi dalle 9.30 per esaminare e discutere le norme contenute in un decreto intitolato Misure urgenti per la crescita, conosciuto come decreto sviluppo. Allora ci aggiorna in diretta da Palazzo Chigi. Andrea Viali, buongiorno. Sì, buongiorno. Il decreto sviluppo è il piatto forte di questo Consiglio dei Ministri. Il provvedimento del Ministro Passera arriva con due settimane di ritardo rispetto al previsto per problemi di copertura finanziaria ora superati. Molte le novità, fra queste c'è il riordino degli incentivi alle imprese e le risorse che verranno risparmiate finiranno nel nuovo fondo per la crescita, che potrà contare su una dotazione iniziale di circa 600 milioni. Novità anche per quanto riguarda l'edilizia, con lo sconto IRPEF per le ristrutturazioni che dovrebbe salire al 50%, previsti poi sgravi per chi assume figure professionali di alto profilo, modifiche della legge sui fallimenti e misure per accelerare i processi. Questo per quanto riguarda il decreto sviluppo, che però non è l'unico punto all'esame del Consiglio dei Ministri. Sul tavolo ci sono infatti anche due provvedimenti che vedranno la luce nelle prossime settimane: la spending review con tagli della spesa pubblica di circa 5 miliardi per quest'anno e di 30 miliardi nel prossimo triennio. Ci sarà poi anche un avvio di confronto sulla dismissione dei beni dello Stato, che era stata annunciata nei giorni scorsi da Monti. Per ora è tutto. Andrea, solo una domanda. Il Consiglio dei Ministri è ancora in corso, mi confermi, non è terminato? Sì, la riunione del Consiglio dei Ministri è ancora in corso e non ci sono al momento previsioni su quando arriverà una conclusione. Molto bene, grazie ad Andrea Viale. Quindi più tardi altri dettagli, anche perché queste sono le misure di cui si sta discutendo. Vedremo poi quello che verrà concretamente approvato. Dopo il Consiglio dei Ministri, Mario Monti sposterà il suo orizzonte oltre i confini nazionali, come ci spiega in diretta da Roma Elisabetta Fiorito. Buongiorno. Sì, buongiorno. La governance europea si riunisce in una videoconferenza alle 16, subito dopo il Consiglio dei Ministri, insieme a Van Rompuy, per analizzare le misure da prendere per salvare l'euro e non solo rilanciare la crescita. Il Presidente dell'Unione guiderà la videoconferenza con i leader di Germania, Francia, Regno Unito e Italia, in preparazione della riunione del G20 che si terrà lunedì e martedì allo Scavos in Messico. Il Premier Mario Monti arriva all'incontro dopo il CDM sul DDL sviluppo, come abbiamo sentito, e anche forte dell'appoggio e della fortissima convergenza avuta ieri con il presidente francese François Hollande sulla crescita. I due leader spronano anche sugli eurobond, cercano quindi di arginare la rigidità della cancelliera Angela Merkel. Molti gli appuntamenti europei di giugno: il 22 si svolgerà un incontro a Roma tra Francia, Spagna, Italia e Germania, il 28 il vertice europeo a Bruxelles. Per il momento qui da Roma è tutto, vi studio. Grazie della situazione europea. Ha parlato questa mattina anche il presidente della BCE, Mario Draghi. Ci prova Mario Draghi a infondere sicurezza. Male che vada, la BCE continuerà a garantire liquidità alle banche solvibili. Da qualche giorno si parla di un'azione coordinata fra le banche centrali, perché se domenica il voto greco non dovesse corrispondere alle aspettative, se non dovesse emergere una maggioranza favorevole alle misure di austerity concordate con Bruxelles, i mercati potrebbero reagire molto male, e non solo i mercati. A quel punto l'uscita della Grecia dall'euro sarebbe più che una possibilità. Per l'economia del vecchio continente un colpo durissimo e un colpo anche per chi, come Londra, è nell'Unione ma non nell'Eurozona. Ecco perché la Bank of England ha già annunciato che a partire dal 20 giugno verranno effettuate iniezioni di liquidità. Draghi però ha specificato come in questa fase di crisi siano predominanti le scelte politiche e che in Europa la BCE non può colmare tutte le falle del processo di integrazione. Vale a dire, Francoforte ha già fatto più di quanto avrebbe dovuto, ora sta ai governi decidere. Stesso concetto, con parole diverse, lo ha espresso il presidente della Bundesbank. Weidmann è convinto convinto che la cifra preventivata per aiutare Madrid sia più che sufficiente, ma il punto non è solo il singolo paese. Secondo il numero uno della Buba, per invertire la marcia serve un salto di qualità, un'Europa più forte con un controllo centralizzato, solo allora si potrà parlare di Eurobond. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le parole di Mario Draghi hanno acceso gli entusiasmi delle borse europee. Sentiamo se è così ancora adesso. Deborah Rosciani, buongiorno. Buongiorno, sì, soprattutto hanno calmato un po' gli ardori dello spread, che stamattina è scivolato per fortuna sotto i 450 punti base, con i tassi dei BTP decennali che sul mercato secondario sono tornati sotto il 6%. Questa situazione, come diceva anche Enrico Pagliarini stamattina, ha fatto recuperare un bel po' di terreno, anche se ancora poca cosa rispetto alle perdite delle ultime settimane ai listini azionari del vecchio continente. Milano, regina d'Europa, in questo momento segna più 2,35% grazie al recupero, non come si potrebbe pensare, di tutto il settore bancario, che sta andando bene, ma non sono i titoli bancari a correre di più, sono soprattutto i titoli del comparto industriale. Finmeccanica in questo momento fa più 7,38, Saipem più 4, Fiat più 4 punti. Le altre piazze europee: Parigi più 1,92, Francoforte più 1,59, Londra più 0,53% e l'euro sul dollaro stamattina riagganciato saldamente 1,26, e direi che per ora è tutto. Grazie Deborah, buon lavoro. Dunque, avete sentito che le parole di Mario Draghi hanno acceso gli entusiasmi. Fino adesso abbiamo parlato di molte parole di buone intenzioni a livello europeo, anche perché non solo l'Europa ma un po' tutto il mondo sta guardando quello che succederà in Grecia, dove domenica si vota per la seconda volta nel giro di poche settimane. Ieri la borsa ha festeggiato con un guizzo del 12%, un sondaggio che darebbe in vantaggio i conservatori pro-euro. Ci colleghiamo con Atene. Vittorio Darold, buongiorno. Buongiorno a voi. Vittorio Darold è inviato del Sole 24 Ore. Allora, Vittorio, questo è un sondaggio di cui si è parlato ieri, abbiamo parlato anche noi al GR24 questa mattina, ma c'è da fidarsi? È una indiscrezione attendibile o meglio non fidarsi troppo? Dunque, la situazione in Grecia è che i sondaggi sono vietati, la pubblicazione dei sondaggi sono vietati dalle ultime due settimane prima del voto, quindi questa è un'indiscrezione che viene fatta ma senza nessuna diciamo così vericità e controllo sull'attendibilità scientifica del sondaggio. Se ne è parlato in via appunto informale ed è un sondaggio che è molto vicino, proviene proprio dagli ambienti di neodemocrazia, quindi in qualche modo è un sondaggio da prendere con molta cautela. Ci sono sondaggi di cui ad esempio una radio locale, Radio Real, ha parlato, c'è un personaggio che potrebbe essere vicino al nostro Beppe Grillo, che ha fatto finta di avere un sogno, di aver sognato invece esattamente l'opposto, e parlava appunto di un sondaggio che dava invece in testa a Syriza, cioè la sinistra radicale. Quindi è veramente molto incerta la situazione. Bene, grazie a Vittorio Darold per questo quadro della situazione che lui conosce molto bene, visto che non è la prima volta che si occupa di elezioni in Grecia. A proposito di sondaggi sulla politica, secondo SVG il Movimento 5 Stelle è ormai il secondo partito in Italia. La lista di Beppe Grillo si attesterebbe al 21%, 3 punti in meno del PD. Il PDL è al 15%, mentre UDC e Italia dei Valori sarebbero sotto il 6%. Sentiamo il presidente di SVG, Roberto Weber, al microfono di Lucio Bondì. Direi che i dati principali mettono in luce questo continuo di scalata e di acquisizione di consensi da parte del Movimento 5 Stelle, che secondo noi arriva oltre ormai la soglia del 20%, e contemporaneamente diciamo due dimensioni: una dimensione legata al centro-sinistra, che in certa misura regge alla spinta che viene da Grillo, e invece il centrodestra, che in questa fase sembra essere fortemente sofferente. Emerge poi una cosa abbastanza paradossale, che sostanzialmente i partiti che stanno in Parlamento avrebbero il 60% o 62% dei consensi, quelli che sono fuori sfiorano ormai il 38%. Dal punto di vista invece della fiducia nel governo assistiamo a è una divaricazione sempre più netta tra la fiducia che viene riposta in Monti, che comunque è intorno, secondo me, a un terzo circa degli italiani, e la fiducia nell'operato del governo, che è molto più bassa, è intorno a un quarto circa degli elettori. Ed ora torniamo ai numeri dell'economia italiana. Ad aprile le esportazioni sono calate dell'1,7% su base annua, mentre il calo delle importazioni è molto più marcato e ha segnato un meno 9,3%. Su base mensile entrambi i flussi commerciali sono positivi, import più 2,5%, export più 0,2%. Il saldo commerciale è vicino all'equilibrio e segna meno 202 milioni di euro. A proposito di numeri, continuano a scendere le immatricolazioni di auto nuove in Europa. A maggio sono scese dell'8,4% su base annua, ma per saperne di più è con noi Andrea Malan. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti. Allora, qual è la situazione e qual è la situazione per l'azienda di casa, cioè la Fiat? Dunque, la situazione è quella che hai detto, meno 8,4%, con a maggio abbastanza preoccupante meno 5% in Germania, che è il mercato più grosso e che è quello che aveva tenuto meglio finora. Il dato dei primi 5 mesi è meno 7,3% in Europa e per quanto riguarda la Fiat abbiamo un calo a maggio del 12,1%, quindi ancora superiore a quello del medio del mercato, con un meno 16,6 sull'arco dei 5 mesi. La quota Fiat scende quindi dal 7,4 al 6,7%. Ha pesato sicuramente il pessimo andamento del mercato italiano, che continua a fare peggio degli altri, ma Fiat perde quota anche nel resto dei paesi d'Europa. A questo si lega la notizia che arriva da Madrid questa mattina. Sergio Marchionne, che è a Madrid per una riunione dell'ACEA, quindi dei costruttori, ha annunciato che Fiat taglierà di 500 milioni di euro quest'anno gli investimenti previsti in Europa, proprio perché il mercato va male. Naturalmente è un gatto che rischia di mordersi la coda, nel senso che un taglio degli investimenti non può che avere un impatto negativo sulla competitività dei modelli del gruppo e quindi rischia di dare luogo a nuove perdite di quote. Andrea, parliamo di 500 milioni, che sono una cifra enorme, media, piccola, facci capire. Beh, sono una cifra che è 500 milioni in meno. Diciamo che complessivamente il livello di investimenti del gruppo Fiat Chrysler, quindi sappiamo che Fiat adesso controlla anche Chrysler, si dovrebbe attestare in un anno attorno ai 6-7 miliardi di euro. Quindi è una cifra che è quasi 10% e si riferisce però solo a Fiat e solo all'Europa, quindi rispetto agli investimenti previsti per l'Europa pesa molto di più. In particolare Marchionne ha confermato che la nuova grande punto che doveva arrivare inizialmente l'anno prossimo slitterà con ogni probabilità al 2014. Il problema è che Marchionne sta cercando un partner con cui sviluppare una piattaforma di quel tipo per avere una macchina più profittevole, e quindi l'investimento slitta e ne soffre naturalmente lo stabilimento di Melfi, dove la Punto è prodotta. Guardando i dati dei primi 4 mesi sulle vendite in Europa, si può proiettare un volume di vendite per la grande Punto di 160-170 mila unità, che è meno dell'anno scorso ed è meno della metà della capacità produttiva dell'impianto di Melfi. Questa è Radio 24, al microfono Enrico Pagliarini per questa edizione di GR24. Adesso lo sport, giorno dopo, a proposito sport, di calcio, parliamo degli europei di calcio. Carlo Genta, buongiorno. Giorno dopo della partita della nazionale, tra amarezza e preoccupazione, Carlo. Bravo Enrico, amarezza e preoccupazione, perché si è riproposta, come spesso capita con le stelle bizzarre del calcio, la stessa situazione degli europei del Portogallo, quando, come sappiamo bene, il 2-2 tra Svezia e Danimarca ci mandò a casa nonostante la vittoria sulla Bulgaria. Ora, dopo l'1-1 con la Croazia e dopo la larghissima vittoria 4-0 della Spagna sull'Irlanda di Trapattoni, nell'ultimo turno dobbiamo giocare con l'Irlanda, dobbiamo batterla e dobbiamo sperare che dall'altra parte, cioè tra Croazia e Spagna, non sia 2-2 o pareggio con un numero superiore di gol, perché in questo caso noi si andrebbe a casa e gli altri due passerebbero. Pensiamo in positivo e facciamo il tifo per la vittoria, quantomeno, di una delle due. Insomma, è chiaro che il giorno dopo è quello dell'amarezza, perché ieri abbiamo visto uno splendido primo tempo dell'Italia, un buon primo tempo dell'Italia e una ripresa in cui abbiamo subito un gol con un solo tiro, e questo pareggio ci mette in una situazione di difficoltà. Oggi gli europei continuano con il gruppo D e sono due partite di estremo interesse, a cominciare da Ucraina-Francia, con i padroni di casa di Shevchenko che hanno vinto la prima gara contro la Svezia. Svezia, questa partita è alle 18, Svezia che affronta l'Inghilterra alle 20:45. Questo è il programma di oggi, Enrico. Grazie a Carlo Gente, adesso parliamo della Guardia di Finanza che a Manduria, in Puglia, ha scoperto un falso invalido di 50 anni che dal 1977, dunque per 35 anni, è riuscito a farsi passare per cieco con relativo assegno di invalidità. Come documentato dai finanzieri, l'uomo conduce una vita del tutto normale. Due persone sono state arrestate e quattro denunciate dalla Guardia di Finanza di Roma per truffa ai danni dell'INPS per circa 200.000 euro scoperte a Nettuno. Tutti per anni avrebbero percepito pensioni sociali e di anzianità di parenti o conoscenti oramai deceduti. E a proposito della Guardia di Finanza, non è un'operazione ma è una notizia che riguarda il corpo. Saverio Capolupo è il nuovo comandante generale della Guardia di Finanza. La nomina è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri, ricordiamo, che è ancora in corso per varare, esaminare le norme relative al famoso oramai decreto sviluppo. Adesso andiamo all'estero, parliamo della Siria. Potrebbe essere convocata per il 30 giugno una conferenza internazionale per cercare di delineare il futuro del paese. Sentiamo Alberto Negri. Che cosa sta accadendo in Siria e soprattutto che cosa avviene intorno alla Siria? Le forze di Bashar Assad sono sempre più in difficoltà nel controllare il paese. I segnali di decomposizione del regime si moltiplicano, anche se la crisi potrebbe durare ancora molti mesi. Una svolta potrebbe arrivare dalla conferenza internazionale sulla Siria proposta dalla Russia, che verrà convocata nelle prossime settimane. Ci saranno i membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e gli stati confinanti o interessati. Ancora non è certa, per esempio, la partecipazione dell'Iran. Mosca non ha ancora abbandonato Assad al suo destino e non ha alcuna intenzione di farlo senza adeguate contropartite e rassicurazioni. Ma i russi sanno che questo regime è in liquidazione e intendono difendere i loro interessi militari, economici e strategici. La Russia ora smentisce seccamente la Francia, secondo la quale Mosca si prepara al dopo Assad. È evidente che siamo ancora sul terreno delle schermaglie diplomatiche. Il dopo Assad sta per cominciare, ma sarà un lungo e doloroso addio. Il Giappone è quasi pronto per riavviare i reattori numero 3 e 4 della centrale nucleare di Oi e tornare così ad avere energia prodotta dall'atomo. Domani ci sarà un vertice molto importante tra il primo ministro giapponese Noda e il governatore della prefettura di Fukui, dove è situata la centrale. Dopo il disastro del marzo 2011 alla centrale di Fukushima, sono stati fermati tutti i 50 reattori nucleari giapponesi. La Cina ha confermato che domani verrà lanciata una nuova missione umana nello spazio e saranno 3 gli astronauti, 2 uomini e una donna, che partiranno sull'astronave Shenzhou dal deserto del Gobi. La navetta dovrebbe raggiungere la stazione orbitante cinese Tiangong. La borsa di Hong Kong ha comprato il London Metal Exchange, la prima piazza mondiale di contratti sui metalli. L'accordo vale 1,4 miliardi di sterline. Abbiamo in diretta Alberto Forchielli, presidente dell'Osservatorio Asia. Allora, Forchielli, che cosa cambia nel mercato mondiale delle commodities, di cui fanno parte anche i metalli, con questa acquisizione? Ma l'acquisto del London Metal Exchange è parte dell'evoluzione normale, in quanto il mondo delle commodity ormai è in Asia, non è più in Occidente, quindi non era giusto che rimanesse tra Chicago e Londra. Consideriamo che la borsa di Hong Kong ormai è una borsa molto forte sui titoli minerari, che insidia la supremazia di Londra. E con questo acquisto del mercato delle commodity minerarie, di fatto la borsa di Hong Kong è in grado di offrire agli operatori minerari la possibilità di fare coperture. È la fine, l'inizio di un ciclo, ossia il consumo è in Asia, la trasformazione è in Asia, la Cina compra dal 40 al 50% dei minerali più importanti che ci sono nel mondo, quindi è giusto che l'Asia abbia la sua borsa dei metalli. Sono le 13:23 minuti, cambiamo argomento, parliamo di vacanze e della crisi. Sembra difficile parlare di vacanze in questo periodo. Oggi è stata resa nota una ricerca Confesercenti che fa il punto della situazione. Sicuramente non meraviglierà il fatto che quest'anno, causa crisi, resterà a casa un italiano su tre. A partire verso mete più casalinghe che esotiche, sarà il 66% contro il 79% dell'anno scorso. Va peggio dunque, ma del resto ce ne eravamo accorti. Si rinuncia alle vacanze nel 40% dei casi per mancanza di reddito disponibile, ma poi gioca anche il fattore psicologico. Per il 22% c'è preoccupazione per la situazione economica e si preferisce non esagerare. Resta stabile, secondo la ricerca Confesercenti SVG, la durata della vacanza, 12 giorni. Ma cala il budget. Quest'anno si aggira intorno a 906 euro a testa, qualcosa in più rispetto all'anno scorso, ma ben al di sotto della quota 2010. Sempre in pole position all'albergo a 3 stelle, ma con un calo del 7%. Cresce di 10 punti invece la preferenza per i 2 stelle. Calano i villaggi turistici. Tra le mete più gettonate per il 70% dei vacanzieri ci sono Puglia, Toscana, Emilia-Romagna, Calabria e le isole. Da notare infine che il 32% degli italiani non rinuncerà a portarsi dietro PC e tablet e, neanche a dirlo, smartphone. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Come sapete, è in corso il Consiglio dei Ministri per esaminare il decreto sviluppo e ci sono notizie che trapelano. Poco fa abbiamo parlato del nuovo capo della Guardia di Finanza, adesso c'è una notizia che riguarda il generale di Corpo d'Armata Arturo Esposito, attuale capo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri, che è il nuovo direttore dell'AISI, il Servizio Segreto Interno. Lo ha deciso poco fa il Consiglio dei Ministri. Sempre a proposito del Consiglio dei Ministri, una notizia di poco fa: è stato approvato un provvedimento che prevede la pubblicazione su internet, per questioni di trasparenza, delle sovvenzioni, dei sussidi alle imprese superiori ai 1.000 euro. Naturalmente più tardi maggiori particolari. Adesso parliamo del 30° anniversario della fine della guerra per le isole Falkland. Il presidente argentino Cristina Kirchner rilancia le mire di Buenos Aires sull'arcipelago. Sono passati 30 anni da quando i paraingleesi entrarono con le bandiere al vento a Port Stanley, capitale delle isole Falkland, mettendo fine a 74 giorni di occupazione delle truppe argentine. Ma la sovranità sull'arcipelago è ancora contestata. Chiediamo solo di sederci intorno a un tavolo e parlare, ha dichiarato il presidente argentino Cristina Kirchner davanti alla Commissione ONU per la decolonizzazione. Dopo di lei hanno parlato i rappresentanti dei Kelpers, i 3.000 abitanti di origine scozzese e gallese che da 180 anni abitano l'arcipelago, a 400 km dall'Argentina e quasi 10.000 dalla Gran Bretagna. L'Argentina vuole cancellare la nostra esistenza per soddisfare un'ingiustificata sete di terre. La risposta di Londra è arrivata in serata, durante la commemorazione dei 255 caduti inglesi nelle battaglie di Goose Green, del vicolo delle bombe e dell'affondamento dello Sheffield. Difenderemo le isole dalla minaccia argentina, ha dichiarato il primo ministro David Cameron. Nel 1982 la giunta dei generali argentini invase le Falkland nel tentativo di distogliere l'opinione pubblica dai problemi interni, tanto che alla fine della guerra fu costretta a cedere il potere e indire libere elezioni. Forse la presidente Kirchner, che è accusata di falsificare le statistiche per nascondere la grave crisi economica del suo paese, oggi si trova in una situazione non molto diversa. Davide Maria De Luca, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Secondo il Wall Street Journal, la Microsoft ha acquistato il social network Yammer per $1 miliardo. Si tratta di un servizio che è dedicato al mondo del business e crea reti di social network private all'interno delle aziende. L'acquisizione servirà a migliorare la parte web di Microsoft Office, che ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno fiscale con ricavi per $17,7 miliardi, in aumento del 6,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In effetti Microsoft Office è uno dei servizi che va meglio per Microsoft. È tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Enrico Paglierini. Grazie a Paolo Corleoni in regia. Il GR torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.